Ci tenevamo a fare una presentazione ufficiale del gelato crudista vegano. In particolare per il gelato ci sono alcuni ingredienti fondamentali del gelato come siamo abituati a concepirlo, che sono due. Uno è lo zucchero, il primo ingrediente. Ora, lo zucchero ci hanno raccontato negli anni 80 che faceva bene al cervello con delle martellanti campagne pubblicitarie. Peccato che negli anni 2000 hanno iniziato ad arrivare una serie di ricerche scientifiche che hanno chiaramente dimostrato che lo zucchero porta dei problemi importanti all'organismo. Alcune ricerche addirittura azzardano che lo zucchero porta a dipendenza, in particolare nei bambini. E poi c'è il latte, che insieme fanno almeno l'80% del gelato che tradizionale a cui siamo abituati. Anche qui stiamo parlando dello stesso latte delle nostre nonne? Ragazzi, il tempo stringe e non ne abbiamo così tanto a disposizione. Via, cerchiamo di fare qualcosa più facile stasera. Guardate, queste tre favole, ragazzi, parliamo di tre favole, Gianni Rodari, favole al telefono, si leggevano praticamente alle elementari. Bene, queste favole le hanno lette i ragazzi, del Giro del Mondo in 80 misteri, e le hanno lette benissimo. Vediamo di non farci fare brutte figure, almeno con loro cercate di mantenere il livello. Secondo me non ci si fa, Ma io andavo all'elementare, alle scuole Gianni Rodari, e sta roba me l'hanno fatta leggere piccino piccino, sicché io dovrei essere avvantaggiato stasera, mi sento un pompa. E poi stasera ci sa anche la Giulia che ci dà una mano. Ma stiamo scherzando, favole al telefono era il mio libro preferito da bambina. Insomma, l'unico imbecille che non conosce Gianni Rodari sono io. Ah, ti devi mettere in pari assolutamente. Vabbè, ora a parte di scherzo anch'io, non è che... Però meno male c'è Giulia, dai, almeno la figuraccia, tutto sommato... La faccio io, grazie. No, dai, tu ce la levi. Dai, su, iniziamo a leggere queste favolette. E sono tre favolette, ma che sarà mai? Allora, aspetta, la Giulia la fa da ultimo, sì, se noi si fa schifo, si passa un po' ci in un meglio. Ci fa risalire la fila, esatto, va bene, dai. Allora, incomincerò io? Giulia, te che dici? Ma a me va bene, basta, mi lasciate quella del palazzo di gelato, era la mia preferita. Anche la più lunga, che va bene. Ah, addirittura, cavolo. Un giorno le scimmie dello zoo decisero di fare un viaggio di istruzione. Cammina, cammina, si fermarono e una domandò: cosa si vede? La gabbia del leone, la vasca delle foche e la casa della giraffa. Com'è grande il mondo e come è istruttivo viaggiare. Ripresero il cammino e si fermarono soltanto a mezzogiorno. Cosa si vede adesso? La casa della giraffa, la vasca delle foche e la gabbia del leone. Com'è strano il mondo e com'è istruttivo però viaggiare. Si rimisero in viaggio e si fermarono solo al tramonto del sole. Cosa c'è? Cazzo! Che c'è da vedere? La gabbia del leone, la casa della giraffa e la vasca delle foche. Com'è noioso il mondo, si vedono sempre le stesse cose e viaggiare non serve proprio a niente. Per forza, viaggiavano, ma non erano uscite dalla gabbia e non facevano che girare in tondo come i cavalli di una giostra. E bravo Julian, avrai un futuro come lettore di necrologi, perché vai proprio a morire. Ma io infatti non ho nemmeno capito, che vuol dire? Erano le scimmie che erano nella gabbia, giravano, ma stavano sempre lì e vedevano le stesse cose. Ma pensa, sto già in Rodari però, eh? Era uno che la sapeva lunga, mi sa, Ma Julian l'avrebbe capito anche un bambino. Io, ora, ci sono arrivato tu. Ma insomma ora ne leggo una io, allora? Vai. Ci provo, Di notte, sentenziava un vecchio proverbio, tutti i gatti sono bigi, ma io sono nero. Disse un gatto nero attraversando la strada. È impossibile, i vecchi proverbi hanno sempre ragione. Ma io sono nero lo stesso, ripeté il gatto. Per la sorpresa e l'amarezza, il vecchio proverbio cadde dal tetto e si ruppe una gamba. Un altro vecchio proverbio andò a vedere una partita di calcio. Prese da parte un giocatore e gli sussurrò nell'orecchio: chi fa da sé, fa per tre. Il calciatore si provò a giocare al pallone da solo, ma era una noia da morire e non poteva vincere mai. Perciò fece ritorno in squadra Il vecchio proverbio per il disappunto si ammalò e dovettero levargli le tonsille. Una volta tre proverbi si incontrarono e avevano appena aperto bocca che cominciarono a litigare. «Chi bene comincia è a metà dell'opera», disse il primo. «Niente affatto», risse. «Niente affatto», disse il secondo. «La virtù sta nel mezzo». «Gravissimo errore», esclamò il terzo. «Il dolce è in fondo». Si presero per i capelli e sono ancora là che se le danno. Poi c'è la storia di quel vecchio proverbio che aveva voglia di una pera e si mise sotto l'albero. Intanto pensava: quando la pera è matura, casca da sé. Ma la pera cascò soltanto quando fu marcia fradicia e si spiaccicò sulla zucca del vecchio proverbio, che per il dispiacere dette le dimissioni. Ah, ma bene! Guarda Claudio, domattina quando vengo da te fammi caffè e veleno e il necrologio me lo legge Giulia. Non t'abbattere, Fumino. Dai, io ragazzi, sono l'unico caprone, manco sapeva che questo Rodari era vissuto, che ne so, ci ho provato. Dai, dai, ora c'è la Giulia, ci pensa lei. Sì, infatti, meno male stasera Giulia tu sei venuta, ci salvi da... dalla figuraccia in Mondovisione, anzi in Radio Mondovisione. Quanto peso sulle mie spalle. Un po' di pressione, dai. Una volta a Bologna fecero un palazzo di gelato proprio in Piazza Maggiore e i bambini venivano da lontano a dargli una leccatina. Il tetto era di panna montata, il fumo dei comignoli di zucchero filato, i comignoli di frutta candita. Tutto il resto era di gelato, le porte di gelato, i muri di gelato, i mobili di gelato. Un bambino piccolissimo si era attaccato ad un tavolo e gli leccò le zampe una per una, finché il tavolo gli crollò addosso con tutti i piatti. I piatti erano di gelato al cioccolato, il più buono. Una guardia del comune ad un certo punto si accorse che una finestra si scioglieva. I vetri erano di gelato alla fragola e si squagliavano in rivoletti rosa. «Presto!» gridò la guardia. «Più presto ancora!» E tutti giù a leccare più presto per non lasciare andare perduta una sola goccia di quel capolavoro. «Una poltrona!» implorava una vecchietta che non riusciva a farsi largo fra la folla. «Una poltrona per una povera vecchia! Chi me la porta? Coi braccioli, se è possibile!» Un generoso pompiere corse a prenderle una poltrona di gelato alla crema e pistacchio e la povera vecchietta, tutta beata, cominciò a leccarla proprio dai braccioli. Fu un gran giorno quello e per ordine dei dottori nessuno ebbe il mal di pancia. Ancora adesso, quando i bambini chiedono un altro gelato, i genitori sospirano: «Eh già, per te ce ne vorrebbe un palazzo intero come quello di Bologna». Ragazzi, come cantava Gianna Nannini, questo programma è un gelato al veleno. Mamma mia, avete letto come dei cani. È arrivata la Giulia, che non aveva praticamente mai partecipato a un programma radio, e vi ha stracciato e vi ha fatto fare la solita figura da babbei. Io mi domando come faremo con lo spettacolo. Lo scopriremo solo vivendo. Speriamo bene lo spettacolo, ma io... ma quando è lo spettacolo? Io non sapevo nemmeno se da fare lo spettacolo. Io so che manca molto poco, Giulia. Allora dovete allenarvi tanto. Giulia, si fa a cambio? No, grazie. Lo fai te al posto nostro? No, mi è bastata questa.